9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 17. Fatemi iniziare con una giornata e un ricordo alla giornata che è la festa dei gatti, e il mio gatto qui Oscar oggi stride un pochino più energicamente del solito, visto che c'è non solo chi vuole metterlo in padella, ma anche in questa rete mi sono dovuto praticamente infilare in un angoletto, perché qui anche in questa rete c'è chi mangia gatti e dice che bisogna mangiare i gatti. Quindi perdonatemi, oggi festa dei gatti, io strenuo felino, convinto che sia l'incarnazione della divinità su questo pianeta, il felino, inizio così perché mi devo difendere, perché altrimenti qua finisco male nell'olio in padella. Non è di questo che ci occupiamo oggi naturalmente, però era una nota dovuta, visto che è diventata una polemica in questo paese incredibile persino quella del mangiare gatti. Ma no, ci occupiamo di una polemica civile che ha occupato da mesi, da anni, quasi tutti i giorni la prima pagina dei quotidiani, e che prevale su ogni contenuto della politica, che anzi bisogna immaginare forse sia anche intesa a eliminare il confronto sui contenuti veri della politica, cioè sulle domande concrete alle quali la politica dovrebbe dare risposte concrete, diversificandosi poi in uno schieramento o nell'altro a seconda di quale sia il tipo di risposta. E invece no, il confronto politico italiano resta regolarmente bloccato, inchiodato, inquadrato e anche scardinato da che cosa? Lo sapete benissimo, da un succedersi di indagini, di annunci di nuovi avvisi di garanzia, da provvedimenti di custodia cautelare, con sempre nuovi particolari in aggiunta a quello che, e questa è la giornata per ricordarlo, 18 anni fa si mise in moto come la Tangentopoli, l'anniversario. Però oggi noi non parliamo della storia della Tangentopoli, non parliamo di quella della Prima Repubblica, ci poniamo, tentiamo di circoscrivere la nostra riflessione di oggi a un intervento che ieri mi ha molto colpito sui giornali, in ordine naturalmente all'indagine che sta dominando sulle prime pagine, quella relativa a Bertolaso e alla Protezione Civile. E questo interrogativo è un interrogativo preciso, ci interrogheremo esattamente su questo punto. Però prima lasciatemi, al termine di questa breve conclusione, dire una cosa. Chi ci segue sa che io sono molto restio a dare giudizi sui miei colleghi. Io ho un grande rispetto per chiunque faccia giornalismo con successo o anche con meno successo, ma comunque nella legittima convinzione di perseguire il proprio punto di vista e che lo dichiari il punto di vista. Come facciamo qua? Noi lo dichiariamo il nostro punto di vista e non crediamo che il giornalista sia detentore di alcune verità, ci mancherebbe altro. Mi capita molto raramente di emettere giudizi. Ieri sera mi è capitato di vedere il Ballarò dedicato dal collega Floris a Bertolaso, che era presente in studio. Io devo dirvi che con grande rammarico oggi mi sono chiesto, parlando di questo tema, se non dovessi introdurre anche con un mio giudizio su questo. Non voglio dare giudizi antipatici, considero la puntata di ieri alla quale ho assistito di Ballarò un classico esempio di quello che secondo me non andrebbe fatto. Però non voglio criticare e censurare nessuno, quindi nel pieno e legittimo diritto di ciascuno indirizzare e impostare le trasmissioni come si vuole, ma faccio questo solo esempio. Ho assistito a due miei colleghi, due direttori di giornali, un grandissimo nome come Eugenio Scalfari, intervenire in diretta telefonica due volte, e poi Concita Di Gregorio, direttore dell'Unità, sostenere questa tesi, inchiodando Bertolaso alle sue responsabilità, dicendogli: non ti puoi sottrarre, perché come nel nostro caso da direttore di giornali noi rispondiamo penalmente di qualunque cosa si pubblichi, anche della pubblicità quasi pubblicata nel nostro giornale, quello stesso vale per te e per tutto ciò che gli uomini della Protezione Civile hanno fatto su di te, per tutto ciò che è stato fatto per gli eventi speciali, oltre che per le emergenze sotto la tua gestione. Quando Bertolaso ha timidamente, nel poco tempo a disposizione peraltro, cercato di fare notare che questo ragionamento è improprio, perché la Protezione Civile, come evidente, non è un giornale, ma soprattutto perché non può rispondere egli, capo della Protezione Civile, di gare o appalti banditi e aggiudicati da strutture altre e diverse, come per esempio nel caso del G8, appalti banditi e aggiudicati da il presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quindi non da Bertolaso della struttura della Protezione Civile, ogni volta io ho visto i colleghi dirgli: no, tu non ti puoi sfilare, tu sei come il direttore di un giornale. Bertolaso sosteneva argomenti formali di responsabilità giuridica coerenti al nostro ordinamento. La risposta era sostanziale ed era: per favore, non tentare confondere le carte in tavola. E Floris ogni volta lo interrompeva dicendo: lei ha fatto politica, lo ammetto, non ha fatto amministrazione. Accusa che, secondo me, se dovesse valere davvero, dovrebbe farci ricordare a tutti che Bertolaso è stato nominato da governi di un tipo e ha continuato a lavorare sotto governi di un altro tipo, perché il giubileo del 2000 come il G8 gliel'ha affidato il governo Prodi. Ma se il punto diventa, come ha scritto Domenica Scalfari, che Bertolaso è condannabile perché è diventato lo strumento di un egolatra sultano come Berlusconi e invece non deve valere l'accusa, magari, se dovesse volere questa, anche di considerarlo un costruttore delle piramidi per conto di Prodi, allora siamo al punto, cioè siamo all'interrogativo che poniamo oggi. E qual è questo interrogativo? È l'interrogativo se vi sia nella vita italiana, oramai, nei confronti di Berlusconi, nei confronti dei suoi collaboratori, nei confronti dei suoi ministri, nei confronti anche di Bertolaso, una vera e propria regia. Ed è una domanda pesante, ovviamente, perché investe il funzionamento concreto, non tanto quello ordinamentale, delle nostre istituzioni. Si pone un interrogativo profondo sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura, su come orienti o non orienti le sue indagini, sui tempi di queste indagini, ed è il pane quotidiano non solo dei dietrologi, ma anche di chi a un certo punto diventa un po' stufo, dice: ma vogliamo parlare di problemi concreti invece che di tutto questo? Ecco, allora abbiamo invitato, ed è con noi, e io molto di questo lo ringrazio, il ministro per i beni culturali, nonché coordinatore del PDL, Sandro Bondi. Buongiorno ministro. Buongiorno dottor Zannino, buongiorno a lei e a tutti, ecco, gli ascoltatori. Che ieri ha sollevato questo interrogativo con un suo intervento sul giornale, che è esattamente quello che ci ha colpito e al quale abbiamo deciso di dedicare la puntata, lo faremo anche con altri ospiti. Ministro, ci spiega da che cosa nasce in lei la convinzione o l'impressione molto forte di questa regia? Sì, innanzitutto voglio dire che sono d'accordo con lei quando nota, quando constata quello che tutti vedono, cioè che questo paese è inchiodato, come ha detto lei, da oltre 20 anni a un cortocircuito tra politica e magistratura, cioè un paese in cui da 20 anni si succedono indagini, avvisi di garanzia, intercettazioni, processi contro sostanzialmente il presidente del Consiglio Berlusconi, il leader della, prima di Forza Italia, poi del Popolo della Libertà. Allora, io credo che, l'ho scritto ieri, che tutto questo non è casuale, e non soltanto non è casuale, ma credo che non sia molto distanti dalla realtà, senza avere manie complottiste, avanzare l'ipotesi che vi sia, io l'ho chiamata una cabina di regia, non sapevo come chiamarla diversamente, ma un luogo, qualcuno che sia capace di pianificare nel tempo i filoni d'inchiesta, che individui volta per volta i possibili bersagli e che sintonizzi tutto questo con le scelte politiche, con l'azione dei mezzi di comunicazione, con l'azione di alcuni magistrati, perché non chiamo in causa la magistratura in quanto tale, chiamo in causa alcuni magistrati che fanno inchieste ad orologeria, che fanno inchieste mirate a distruggere, a perseguitare gli avversari, a distruggere e a demonizzare gli avversari politici, quello che è avvenuto in questi ultimi anni. Allora, io vedo tre fasi nella storia politica italiana in questi ultimi 20 anni, da quando Berlusconi è sceso in campo, come si è detto. La prima fase è stata quella dello scontro politico a tutto campo, della sinistra nei confronti di un esponente politico come Berlusconi, e si sono utilizzati tutti i mezzi di questo scontro politico, della delegittimazione morale, della demonizzazione, della contrapposizione radicale contro un leader politico al quale si sono attribuiti tutti i mali di questo paese. Qui, in questa prima fase c'è stato l'avvio di tutte le maggiori inchieste, a partire da quella del 94, quando Berlusconi fu raggiunto, come tutti ricorderemo, a Napoli, mentre presiedeva un vertice internazionale, da un avviso di garanzia che stato all'origine della caduta del primo governo Berlusconi, non dimentichiamolo, avviso di garanzia e accusa che poi si è rivelata completamente infondata, ma nel frattempo un governo era caduto. E, dopotutto, in quest'ultima legislatura, soprattutto dopo i risultati positivi del governo Berlusconi, cioè l'aver risolto lo scandalo della spazzatura a Napoli, l'avere affrontato con efficienza, con le conseguenze del terremoto dell'Acre, cioè nel momento in cui Berlusconi aveva raggiunto l'apice del consenso in questo paese, ecco che scattano di nuovo un altro piano che consta di due elementi. Il primo è una serie di iniziative mediatiche, giudiziarie, che tirano in ballo la vita privata del Premier. Il secondo momento di questo nuovo piano è di colpirlo nei suoi interessi economici, al cuore dei suoi interessi economici. E questo colpendo Fininvest con risarcimenti plurimiliardari, tanto per colpire al cuore i suoi interessi economici. Anche tutto questo fallisce in qualche modo, perché si rendono conto che Berlusconi è inattaccabile, Berlusconi è indistruttibile in qualche modo, perché resiste anche a queste nuove inchieste giudiziarie. Allora ecco il terzo piano che entra in azione, è quello di colpire i suoi collaboratori più stretti. Era già caduto, ben inteso, nel 94, quando si colpì Marcello Dell'Utri, che era quella persona che per doti organizzative, per capacità di visione politica, poteva dare un contributo politico importante a Berlusconi. Marcello Dell'Utri è stato immediatamente azzoppato e Dell'Utri non ha mai potuto più ottenere dei ruoli politici che avrebbe potuto svolgere. Oggi si attaccano i collaboratori più stretti di Berlusconi, a partire da Bertolaso, il quale, come ieri ha detto giustamente, era diventato troppo popolare. Era diventato, secondo me, pur essendo molto diverso da Berlusconi, per indole, per mentalità, Bertolaso per formazione, eccetera, ma era diventato troppo connaturato, diciamo così, alla filosofia di governo di Berlusconi, cioè alla politica del fare. Ecco che Bertolaso entra nel mirino di queste inchieste giudiziarie, poi entra nel mirino anche un uomo come Denis Verdini, uno dei principali collaboratori del presidente Berlusconi. Insomma, non si può escludere che altri collaboratori del presidente Berlusconi possano essere coinvolti in questa nuova, diciamo, in questa nuova filone di inchieste ordite da qualcuno. Io penso, dottor Giannino, che tutto questo non può essere casuale. Tutto questo risponde a dei progetti ben precisi, a qualcuno che ha la finezza politica di tenere i fili di queste cose. Allora, sentiamo di fronte a questa argomentazione pacata ma con successione di argomenti nel tempo, alcuni ascoltatori mi mandano un sms che dicono: ma come, attacchi Floris perché lui fa domande scomode? No, io dico che un giornalista che dice che il capo della protezione civile deve rispondere di appalti e gare che non ha giudicato lui e non ha bandito lui, non è un giornalista, è al servizio di una tesi preconcetta. Questo è quello che dico io, e io credo che un giornalista non debba essere al servizio di una tesi di accusa o di difesa preconcetta, deve sapere spiegare ai propri ascoltatori, ai propri telespettatori che risponde delle gare e degli appalti aggiudicati, chi le bandisce e chi le aggiudica, non una struttura diversa. Oltretutto pretendendo di tacitarlo, dicendo: io che sono direttore di giornale rispondo di tutto. E allora? Un giornale è un giornale, la protezione civile è la protezione civile. Chiusa la parentesi. Chiediamo adesso, di fronte a questa argomentazione, cosa ne pensa Giuseppe Cascini, che è il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Lo sapete, lo invitiamo spessissimo, perché la magistratura ha il ruolo che ha nella vita italiana, ha il ruolo proprio, che è quello di svolgere le indagini, di agire ex officio di fronte a notizie di reato così gravi. Naturalmente, di fronte all'impatto, al peso che queste indagini hanno, diventa anche poi protagonista di un dibattito pubblico, di polemiche politiche molto forti. Ora, Cascini, buongiorno. Buongiorno. Che argomenta, che controargomenta di fronte al dubbio, ma più di un dubbio, del ministro Bondi? Io sono molto sorpreso dall'approccio che un ministro della Repubblica ha su un tema così delicato come quello della corruzione della politica. Abbiamo visto tutti sui giornali quello che è accaduto in queste settimane. Un consigliere comunale con 10.000 euro arrestato mentre incassa una tangente. Abbiamo letto le intercettazioni telefoniche. Ci sono dei fatti specifici sui quali la politica dovrebbe interrogarsi, domandarsi sul perché succedono queste cose, su cosa non funziona nei meccanismi di controllo interni alla politica. Chiudersi a riccio dicendo che è tutto un complotto dei giudici contro Berlusconi è non solo ridicolo, perché non si tiene conto del fatto che ci sono 9.000 magistrati in Italia e la magistratura è un potere diffuso e ogni procura si muove in maniera autonoma sulla base di singole notizie di reato, ma è molto miope, perché non consente alla politica di guardare al proprio interno e di risolvere i propri problemi e lasciare solamente al giudiziario, quindi scaricare sul giudiziario un problema gravissimo della società italiana, che è quello della corruzione. La corruzione non l'hanno inventata i magistrati, la corruzione in Italia esiste ed è diffusa e la politica ha il dovere di occuparsene prima che se ne debbano occupare i magistrati. Io non sto dando giudizi sui singoli e penso che siano i processi, le aule di tribunale, il luogo nel quale si deve decidere della responsabilità del singolo, ma una riflessione sulle responsabilità politiche e quindi sui meccanismi per evitare che queste cose si ripetano tocca alla politica. Se la politica si limita a dire sono i giudici cattivi che ce l'hanno con Berlusconi, non fa un buon servizio a se stessa e al paese. Qui però non stiamo per il momento ancora entrando nella sfera di come fare a evitare che si ripetano. Qua la domanda è se può immaginarsi, se si debba anzi immaginare una serie di serie concentriche di iniziative che di fronte al non conseguimento, mancato conseguimento dei suoi obiettivi, estenda ulteriormente la portata dei bersagli, per così dire. Quindi non siamo nella fase del far finta di niente, anzi del prendere molto sul serio, perché l'interrogativo è: intercettate per anni fino a che beccate qualche cosa, date in pasto intercettazioni che è tutto da vedere se poi configurino o comprovino davvero ipotesi di reato e sparate nel mucchio. Ma questo francamente è un'affermazione che non trova nessun riscontro nella realtà. Qui c'è un'indagine molto precisa, molto rigorosa, su appalti, su tangenti, nella quale sono stati intercettati gli autori di questi reati e sono stati individuati dei fatti che ne hanno condotti all'arresto. Io non vedo nulla che ha a che fare con la sfera privata di questi soggetti, nulla che ha a che fare con un'invasione della privacy, nulla che ha a che fare con la ricerca di obiettivi. I magistrati si muovono sulla base di notizie di reato. Se si ha la notizia che si stanno commettendo dei reati, si fanno degli accertamenti. Io poi trovo sorprendente che si scoprono gli autori di questi reati invece di dire grazie ai magistrati che hanno scoperto dei ladri che rubavano, speculavano sulle disgrazie di questo paese, che si arricchivano a danno dei terremotati e delle vittime delle calamità, invece di dire grazie ai magistrati, la risposta è avete abusato del vostro potere per andare a colpire i vostri nemici politici. I magistrati non hanno nemici politici. Purtroppo, guardi, dottor Giannino, che è la stessa litania. Quando governa il centro-sinistra si dice che i magistrati vogliono il governo di centro-sinistra, se lo ricorda con Mastella. Sì, adesso sì. Che c'è Berlusconi si dice che allora quali sono i nostri amici politici? Cioè, quando c'è il governo di centro-sinistra lo facciamo cadere e quando c'è il governo di centro-destra lo facciamo cadere. La verità non è questa, la verità è che la politica ha da 20 anni un problema enorme, che è quello del rapporto con la legalità e del rapporto con la corruzione, deve fare una riflessione al proprio interno. Questi signori che rubavano alle spalle... C'erano o non c'erano? Chi ce l'ha messi lì? I magistrati? Per poi colpire Berlusconi? O ce l'ha messi qualcuno che non ha saputo fare il proprio mestiere? Allora si occupi di questo la politica. Ok, allora stop, perché abbiamo bisogno di 2 minuti di pubblicità per poi riprendere, sempre con la pacatezza, come vedete, con ciascuno che ragiona dal suo punto di vista. Mi dispiace che molti dicano che non cambiano canale, perché io sarei un propagandista. Non so di chi, di sicuro non faccio processi a tavolino. Cambiate canale, se la pensate così. È piena l'informazione italiana di gente che fa processi a tavolino, va bene? Quindi potete soddisfarvi altrove. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di fronte all'indagine Bertolaso Protezione Civile e a tutte le indagini dei mesi dei precedenti su Berlusconi eccetera eccetera, della domanda posta dal ministro Sandro Bondi. Abbiamo avuto il nostro microfono, abbiamo ascoltato l'illegittima impressione dal suo punto di vista che vi siano dei cerchi concentrici tutte le volte che non si riesce ad abbattere Berlusconi con un'indagine particolare mirata prima di lui, poi sulle sue aziende eccetera eccetera, si arriva ai collaboratori popolari più efficaci estendendo il raggio di queste azioni di indagine. In realtà volte a fini politici. Abbiamo sentito la replica di Giuseppe Cascini, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, che dice: ma guardate, nelle procure noi lavoriamo autonomamente, è un potere diffuso, non è gerarchico, non c'è un centro, una regia ipotizzabile o realizzabile di tutto questo. E il problema è che a distanza di 18 anni dall'inizio di Tangentopoli la politica non è riuscita a venire a capo del problema dell'illecito che la permea, e quindi è inutile che se la prenda con noi. E la domanda che io faccio a questo punto a Piero Ostellino, editorialista del Corriere della Sera, grande ex direttore liberale ai miei occhi del Corriere della Sera, è: dopo questi 18 anni e di fronte alla recrudescenza che queste indagini hanno tutte le volte che Berlusconi rivince le elezioni, lei che impressione si è fatto in realtà? Ma io non riesco a vedere dietro quello che sta accadendo una sorta di regia e di congiura verso Berlusconi o il centrodestra o questo tipo di governo. Io ci vedo piuttosto il frutto di una cultura diffusa. E io sono d'accordo, ad esempio, con il presidente dell'Associazione Magistrati quando dice che spetta alla politica combattere la corruzione. Il guaio è che io ho la sensazione che anche la magistratura abbia questa vocazione, quella di combattere la corruzione. Allora mi ricordo quello che disse Falcone, che fu un grande magistrato: noi non combattiamo la mafia, noi applichiamo la legge. E la differenza è forte, perché combattere la mafia o combattere la corruzione vuol dire introdurre nel sistema giudiziario un principio etico-politico, cioè introdurre l'idea che la funzione della magistratura sia quella di raddrizzare il legno storto dell'umanità, cioè rendere l'Italia migliore, più onesta. E questo non è il compito della magistratura. Io credo che invece la magistratura, a partire da Mani Pulite, sia entrata dentro questo ruolo, cioè che sia convinta che tra le sue funzioni ci sia quella di supplire alle carenze della politica, che non è stata in grado allora, dopo il famoso discorso di Craxi del luglio del 92, di mettere mano al sistema dei rapporti tra politica ed economia e ridurre in qualche modo le occasioni di corruzione. A questo si aggiunge un altro fatto, che nel nostro mestiere ci sono troppi giornalisti che credono di essere Saint-Just o Robespierre. Saint-Just e Robespierre avevano la loro grandezza e soprattutto erano collocabili in un mondo dove si tagliavano le teste. Bene, molti nostri colleghi sono di questo avviso, che sia loro compito quello di tagliare in qualche modo le teste. Bene, i giornalisti devono dare le notizie, non devono supplire sia alla politica sia alla magistratura, non devono cioè impalcarsi in posizioni di tipo moralistico che non spetta loro. E poi, in ogni caso, vorrei anche ricordare un altro particolare. Cioè, da Machiavelli in su, fino a Croce, il problema dei rapporti tra politica ed economia e tra politica ed etica sono rapporti delicati che vanno trattati su un piano culturale molto alto. Benedetto Croce diceva giustamente: quando io vado dal sarto non gli chiedo di essere onesto, gli chiedo di farmi un buon vestito. E quando vado dal medico non gli chiedo di essere onesto, ma gli chiedo di curarmi decentemente. Ma perché io devo andare dal politico e pretendere pregiudizialmente che sia onesto? Io mi accontenterei, diceva Benedetto Croce, che il politico sia efficiente. Allora facciamo un esempio storico, anzi facciamone più di uno. Stalin, Hitler, Mussolini, di loro erano persone oneste, ma nessuno di noi sarebbe vissuto sotto quei regimi. Quindi il problema è politico, c'è una cultura diffusa nel nostro paese che è una cultura giustizialista da parte ormai del giornalismo, di certi settori della pubblica opinione, ma c'è anche una cultura in base alla quale non c'è più nessuno che faccia il suo mestiere, perché non c'è una cultura del diritto, dello Stato di diritto, non c'è una cultura delle garanzie dell'individuo. All'individuo non vengono offerte alcuna garanzia. Un uomo ha successo? Beh, dietro deve esserci qualcosa, qualcuno deve averlo protetto, qualcuno deve essere il suo santo in paradiso, forse se l'è cavata violando la legge. Cioè, è un paese che non riesce neppure a riconoscere la meritocrazia, perché pensa che dietro il merito ci sia sempre qualche cosa di losco. Ora, un paese che ha questo tipo di cultura è un paese arretrato culturalmente, è un paese che non uscirà mai da questo circolo vizioso. Poi, dopodiché, che noi si individui in questo circolo vizioso una regia oppure no, questo è un altro paio di maniche attiene all'opinione di ciascuno di noi. Insomma, è una cultura vecchia. Il rifondazionismo morale inseguito come meta è un metro in realtà di arretratezza, perché la volontà di realizzare il paradiso in terra, questo, no? Assolutamente, e questo deriva dalla nostra cultura, c'è un retaggio del provvidenzialismo, diciamo pure marxista, perché no, ma anche del provvidenzialismo cattolico. Cioè i cattolici, se non altro, hanno una visione trascendente della realtà, cioè saremo salvi nell'aldilà. Bene, pensare di avere una cultura politica che ci salvi dal di qua è una forma di provvidenzialismo che instaura i processi sulla piazza, nei bar, sui giornali. Ora, un rapido giro di opinioni degli ascoltatori, perché naturalmente sono curioso di vedere, al di là di tanti che vedo mi mandano col paese, io me ne scuso sempre perché non mi sembra che sia così unilaterale, sono semplicemente, noi siamo un po' diversi, questo sì, però ogni tanto, tra l'altro, a chi fa osservare, non ci sono esponenti della sinistra che parlano, no, non è vero, non ci sono, perché ieri ho passato tutto il pomeriggio insieme alla nostra redazione a cercare prima la Bindi, poi la Finocchiaro, poi a chiunque, quando abbiamo detto che c'era Bondi e qual era l'impostazione del programma, dicevano no grazie, questa è la maniera naturalmente per farmi passare per unilaterale, non lo so, io non ci sto da sto giochetto, non cambio tema perché qualcuno non viene e dice che così sono squilibrato, scusatemi, ma non funziona così il giornalismo. Sentiamo Giovanni da Ferrara innanzitutto come la pensa. Buongiorno. Dica. Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno. Complimenti innanzitutto. Dunque niente, come dicevo, è un vecchio volontario di Croce Rossa, quindi protezione civile da una vita. Il mio contributo era solo questo. Le intercettazioni da parte di Rosso sicuramente sono datate, se non mesi, se non anni. Domanda, Bertolaso sta diventando troppo forte? Berlusconi è la destra di Bertolaso, Bertolaso è la destra di Berlusconi? Per carità di Dio. Si danno incarichi strani alla protezione civile? D'accordissimo. Domanda, ma possibile che tutto questo vada sui giornali solo ed esclusivamente nel mezzo di una legge che deve essere approvata e sicuramente sarebbe stata approvata vista la maggioranza? Grazie Giovanni, domanda che io considero legittima, anche se naturalmente la risposta può essere ci vanno quando noi decidiamo, consegniamo gli atti e quindi vengono desegretate. Questa tecnicamente è questa la risposta, come sa chiunque abbia dato procedura. Sentiamo Lorenzo da Novara, prego Lorenzo. Allora, buongiorno innanzitutto. Senta, io volevo semplicemente rimarcare che siamo stufi di avere politici autoreferenziali che continuano a sostenere che è sempre colpa di qualcun altro. Loro non ci sono, loro non c'erano, le tasse si pagano con molta fatica e ci impongono dei sacrifici e delle grandi rinunce. Quindi vogliamo efficienza e rispetto e soprattutto responsabilità. La politica è la responsabile, l'unica responsabile di tutto il disastro che noi abbiamo in Italia, del dissesto economico e di tutto quanto. È inutile, Berlusconi, adesso ho sentito l'intervento di Bondi che come sempre è patetico, Berlusconi non si sa se è un perseguitato o se è entrato in politica per sfuggire alla magistratura. Quindi questo è il mio parere, grazie. Grazie a lei. Giorgio da Pisa, prego. Sì, buongiorno, io mi pongo solamente una piccola domanda, come mai tutti i politici vogliono andare al potere, non al governo, al potere? Allora, loro non diranno mai la verità sui loro sistemi. Giorgio, non la voglio interrompere, le faccio solo un'osservazione. Ha ascoltato Stellino prima che diceva dove ci può condurre questa impostazione del perfezionismo in terra? E lei, le faccio riflettere, non è che le dico non ha diritto di pensarlo, però se lei dice vogliono il potere invece che il governo, non è che per caso lei sta assumendo quest'ottica un po' di voler il paradiso in terra e siccome non c'è allora dice politici cattivi? Scusi se mi permetto, però vado avanti ovviamente. No, io volevo dire solamente che c'è una certa parte politica che la sua punta di diamante è un ex magistrato e sta usando questi due nuovi ex magistrati per scardinare l'avversario con il quale loro non riescono a trovare argomenti giusti per metterli in brutta luce, tutto lì. La ringrazio, come vede e come ascoltano tutti, interrompo chiunque come la pensi, se non mi convince l'argomento. Ugo da Napoli e poi torniamo con i nostri ospiti. Prego Ugo. Buongiorno, io volevo solo fare una riflessione, perché non credo che ci sia un complotto che tanti magistrati si uniscono in qualche stanza segreta per fare operazioni, diciamo, politiche. Ritengo che ci sia la spettacolarizzazione dei processi che induce un magistrato a metterci più enfasi a perseguitare l'uomo semplice dall'uomo di potere. Per me questo è uno dei valori. Poi che uno ha un potere e deve essere oggetto all'indagine magistratura, lo ritengo santo, giusto, doveroso. Uno ha un potere, gestisce e amministra per il nostro per conto. Carità, certo. Se il suo collaboratore sbaglia e lui non lo sa, deve dimostrare che non lo sapeva, perché altrimenti non ci si comprende cosa ci sa fare un vertice e sotto una struttura. Vede che le faccio osservare, lei ha appena detto deve dimostrare lui che non sapeva. In realtà nel nostro ordinamento, voglio dire, i diritti sono a tutela dell'indagato, anche se fa il politico. In realtà è chi lo accusa che deve dimostrare, non è lui che deve dimostrare di essere innocente. Attenzione, perché questa frasetta che lei ha appena usato la dice lunga su come siamo abituati ad avere di noi, della nostra interazione pubblica, dei protagonisti della vita pubblica e del ruolo di chi svolge le indagini, un ruolo falsato. Perché partiamo dal presupposto che, siccome la moglie di Cesare deve essere adesso proprio sospetto, giustissimo, allora si ascolta un telefono e per cortesia di fronte a frasi eccetera eccetera no, lui vada in televisione e dica lui, dimostra lui di non essere. E come fa a dimostrarlo se poi di fronte all'argomento come ieri sera gli risponde non ti puoi sfilare? Perché è questo che mi ha colpito, il meccanismo è finito, cioè dal punto di vista pubblico, cioè politico. Poi naturalmente c'è il procedimento, c'è il dibattimento con tutti i suoi diritti e si arriveranno alle sentenze o ai proscioglimenti, ma intanto politicamente e pubblicamente, visto che Bertolaso non è un politico, lui è finito. Questo è il punto su cui riflettere. Allora, eccoci tornati in studio di fronte a questa ipotesi del complotto. Molti mi chiedono che numero abbia la tessera della P2, se mi presento alle elezioni. Non lo so, cari ascoltatori, non ci siamo proprio, scusate, ma vi restituisco queste opinioni perché evidentemente siete abituati a confondere il giornalismo con qualcos'altro, a costo di rimetterci il posto qua, ve lo continuerò a ripetere, mi dispiace. Voglio sapere dal ministro Bondi, di fronte alle osservazioni di Cascini e degli altri che dicono ma come si fa a immaginare una regia, ma che può pensare che i pubblici ministeri, che come è noto difendono con le unghie e con i denti la propria indipendenza, non sono gerarchizzati neanche rispetto ai capi uffici della procura, e poi cosa fanno? Accettano una specie di ordine temporale per dire passiamo col primo stadio del missile, poi il secondo stadio, poi il terzo stadio. A chi attribuirla poi? All'opposizione, quando noi nei confronti dell'opposizione abbiamo buttato giù pure Prodi e Mastella. Chi sarebbe quindi questo regista, secondo lei, Bondi? Ma guardi, io ho avanzato un'opinione politica. Io faccio il politico, sono un politico, guardo alla storia politica di questo paese, cerco di interpretare gli avvenimenti politici di questo paese, avanzo un'ipotesi che naturalmente è discutibile, ma è un'ipotesi dal mio punto di vista abbastanza credibile. Io peraltro sono d'accordo con il dottor Piero Stellino nella sostanza, quando ha detto che l'Italia ha bisogno che ciascuno faccia bene il suo mestiere. Io penso che se noi guardiamo gli interessi del paese tutti insieme, non possiamo che riconoscere questo punto importante, cioè c'è bisogno di un paese in cui ognuno faccia bene il proprio mestiere, quindi c'è bisogno da questo punto di vista di una politica che adempia fino in fondo alle proprie responsabilità di governo, certamente di capacità di governare bene questo paese, ma anche di pulizia morale, certamente i partiti hanno la responsabilità di ritornare ad essere delle scuole di formazione politica, di disciplina morale, di selezione di una nuova classe dirigente del paese, di amministratori locali e nazionali. I partiti hanno il dovere di allontanare le persone che approfittano della politica e delle loro responsabilità per arricchimenti personali. E questo l'ho ben a mente, è quello che noi stiamo facendo nel nostro partito. Ma il paese ha bisogno anche di una magistratura che agisca nei limiti delle sue funzioni. Allora questo è un altro richiamo alle responsabilità proprio dei magistrati nel nostro paese. Allora da questo punto di vista, ma le sembra normale che di vivere in un paese in cui i verbali delle inchieste, le intercettazioni vengono distribuite sistematicamente ai quotidiani nazionali prima ancora che essere recapitate agli avvocati di difesa? Ma questa è una barbarie, è una cosa indegna di un paese civile. Soltanto chi entra in questo tritacarne che umilia la dignità delle persone, i loro interessi, i loro legami familiari, si rende conto della violenza che si fa nei confronti delle persone. Detto questo, che ciascuno deve fare le proprie responsabilità, ma io rifletto sulla storia di questi ultimi 20 anni, che non è la storia di un amministratore locale che viene preso con 5.000 euro di tangente, ma è la storia di Andreotti, di Craxi, di Del Turco, di Mannino, di Mastella, di Berlusconi, di tutti quei, di quei politici che sono stati messi nel mirino di una parte della magistratura. Ma su queste cose è possibile che non dobbiamo riflettere? Persone che sono state inquisite, perseguitate per anni e anni con teoremi giudiziari totalmente infondati, il che ha nuociuto agli interessi generali del nostro paese. Ma noi possiamo vivere in un paese in cui da 20 anni, in questi ultimi 2 anni in successione continua, si passa da un processo all'altro, si passa dalla deposizione di Ciancinino per cui Forza Italia è nata dalla mafia, per cui l'Italia è un paese mafioso, ad altre inchieste contro Bertolaso e contro altri. Ma un paese come il nostro può sopravvivere in questo modo? Ecco. È un quesito che dobbiamo porci tutti. Benissimo, domanda per Cascini. Da una parte sulla spettacolarizzazione, insomma, cioè sui tempi e i modi delle pubblicità degli atti, ogni volta è polemica, e poi in realtà mi pare che le cose, in effetti c'è stato qualche significativo anche cambiamento rispetto ad anni fa, all'inizio di Mani Pulite, però poi alla fine l'effetto lamentato dalla politica è sempre quella. La domanda che faccio io è, ha spiegato chiaramente, dice, ma di che cosa stiamo parlando? La politica risponde a di altro. Se uno guarda con l'ottica di lungo periodo, il contrasto istituzionale che resta fortissimo con la politica di tutti i colori rispetto alla magistratura, non rischia però comunque di ottenere l'effetto di un indebolimento istituzionale, della fiducia pubblica, del fatto che non resti in piedi nessuno, per così dire, come nel famoso film dei tagliatori di teste scozzese, a distanza di 18 anni? Le chiedo una riflessione spaccata su questo. Ma guardi, io sono il primo a essere preoccupato come cittadino e come magistrato di quello che succede. Guardi, io le faccio l'esempio proprio del G8, delle indagini sul G8, perché questo secondo me serve a capire. Sugli appalti della Maddalena ci sono stati molti servizi giornalistici che hanno denunciato una serie di disfunzioni. Era emerso, era stato scritto da vari giornali, che il cognato di Bertolaso aveva appalti alla Maddalena. Allora, perché la politica non riesce a intervenire su queste cose e aspetta sempre i carabinieri? Perché poi l'intervento della magistratura è sempre un intervento traumatico, si arriva agli arresti, gli atti sono pubblici dopo gli arresti e quindi vengono pubblicati, e si ha questa impressione che sia un'iniziativa giudiziaria l'unica iniziativa contro un sistema di corruzione, e quindi si ha anche questa percezione cui faceva riferimento Ostellino di una confusione tra il momento etico e il momento giudiziario. Però io la penso un po' diversamente da Ostellino, cioè ritengo che la moralità pubblica sia un valore e che i partiti se ne dovrebbero occupare ben prima che si entri nel giudiziario del penale. Voglio dire che ci sono dei comportamenti che sono inopportuni, sconvenienti, che un politico dovrebbe evitare, indipendentemente dal fatto però che abbiano meno rilevanza penale. Però vede Cascini, allora, che anche lei sta facendo un discorso che ha a che vedere con la morale prima che con rispetto del codice penale. Io non sto discutendo il fatto, da cittadino, è giusto, ma da magistrato... Mi consenta di dire una cosa su questo, non ha niente a che fare con la morale, ha a che fare con le regole di opportunità. Quando noi diciamo sempre, perché lo diciamo per i magistrati devono apparire imparziali, no? Perché diciamo che ci sono delle regole. Beh, perché i magistrati intervengono sulla vita, la libertà e il patrimonio. Secondo lei i politici non devono apparire imparziali? Ah, come no? È una cosa che va bene. No, mi scusi. Il ministro dottor, prende gli appalti. Dottor Cascini, no, aspetti un secondo, dottor Cascini. Reato, un conto è che lo pretende da un magistrato che ha i poteri che gli sono fedeli all'ordinamento. Pretendere da un politico che sia imparziale, non lo so. L'articolo 97 della Costituzione attribuisce. Ma quella è la pubblica amministrazione. Quella è la pubblica amministrazione, siamo d'accordo. La protezione civile non è un pubblico. Ma infatti io distingo Bertolaso dalla politica, questo io sono d'accordo, e ci mancherebbe. Io dico che un alto amministratore come Bertolaso, il cui cognato prende appalti alla protezione civile, pone un problema del quale dovrebbe occuparsi la politica prima che arrivino i carabinieri. Questo non ha niente a che fare con l'etica o col moralismo, ha a che fare con regole deontologiche che la politica dovrebbe darsi per evitare che la gente rubi. Quindi ho capito, lei dice... Poi arrivano i carabinieri, quindi arrestano le persone, finisce la sintesi sui giornali e si urla al complotto. Certo che siamo preoccupati, ma se la, è la politica che continua a non preoccuparsi quantomeno della sfera precedente prima della constatazione dei reati. Mi è chiarissimo questo. Riflessione conclusiva a Piero Ostellino: è una gara senza fine fino a che qualcuno resta in piedi, o c'è un, secondo te, da osservatore anche in termini comparati di ordinamenti, la possibilità che alla fine una linea di caduta di queste cose, di sedimentazione e quindi di atmosfera diversa, si possa in qualche maniera verificare e prendere piede nel nostro paese? No, questa valanga non si fermerà, non si fermerà, perché c'è una voglia di totalitarismo, di autocrati in Italia, e se io fossi un magistrato sarei molto preoccupato, perché una gran parte dell'opinione pubblica individua nella magistratura l'autocrate. Il nostro magistrato ha appena detto che il cognato di Bertolaso aveva avuto degli appalti. Bene, ma c'è un reato in questo? Cioè, nel momento stesso in cui si insinua che il cognato di Bertolaso ha avuto degli appalti, si insinua che in qualche modo ci siano stati dei reati. Che questo lo dica un magistrato, a mio avviso, è molto grave. Cioè, sono state violate le leggi? No. C'è un caso di opportunità, su questo non ci sono dubbi, ma il caso di opportunità lo giudicheranno gli elettori. Cioè, se il centrodestra mette a capo della protezione civile il fratello di qualcun altro, bene, gli elettori lo giudicheranno, perché questo è un fatto politico. Ma che un magistrato dica, per il solo fatto che il cognato di Bertolaso è diventato appaltatore di certi lavori, c'è il sospetto che ci sia stata la corruzione e quindi avrebbe dovuto intervenire la politica, beh, questo a me sembra molto grave. Eh sì, io sono completamente d'accordo con Piero Ostellino. Saremo minoritari finché ci vorrete e potrete sopportare. Ringrazio molto Giuseppe Cascini, segretario dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Ringrazio molto il ministro Bondi, che si è esposto alla raffica di insulti, degli sms che gli avete mandati e che io gli giro, ovviamente. E l'ultimo mi ha fatto molto ridere: la ghigliottina, dice 953, per i politici corrotti e puttanieri. No, la ghigliottina no, Saint-Just e Robespierre sono errori della storia. E su questa conclusione, viva i gatti e non mangiateli per favore, la mia ironia finale. Vi do appuntamento a domani, grazie regia Pippo Reggi e Alessandro Marco Turni in redazione, linea Giornale Radio.